30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Dopo 400 giorni di rivolta contro il regime di Assad e una stima di oltre 8.000 morti, la Siria resta un paese lacerato dalle violenze intestine, più che mai bersaglio di appetiti internazionali, grandi interessi geopolitici. L'avanguardia della missione degli osservatori ONU incaricata di monitorare il cessate il fuoco è a Damasco, guidata dal generale norvegese Robert Mood, ma nessuno sembra credere che il piano di pace firmato ONU-Lega Araba possa funzionare. Cari ascoltatori, buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Tra le cose accadute questa settimana c'è stato anche un incontro, un vertice a Parigi per cercare di individuare un percorso, una strada, la parola soluzione addirittura in questa fase davvero presuntuosa, ma insomma di trovare un percorso per uscire da questi 400 giorni di rivolta, di violenza, di sangue, che di fatto travolgono ormai la Siria senza però trasformarla. Il 15 marzo del 2011 il primo grande raduno di piazza Damasco, lanciato via web, un momento che sancisce l'inizio della rivolta al regime di Assad, che risponde immediatamente con la forza. Siamo dunque nel marzo del 2011, dello scorso anno. La Siria in quel momento, prima di quel momento, sembrava in fondo un problema minore sullo sfondo di un'emergenza nel Mediterraneo innescata dalla cosiddetta primavera araba. Un anno dopo Gheddafi, che allora invece un anno fa, poco più di un anno fa, era davvero al centro dell'attenzione, è stato ucciso. Nel frattempo in Egitto i fondamentalisti e musulmani sono impegnati nella riscrittura della Costituzione e, come abbiamo detto la Siria vive settimane, mesi, 400 giorni di violenza. Questa sera, per parlare di questo spazio mediterraneo orientale, ancora una volta così vicino di fatto al nostro territorio, ma anche ai nostri interessi, abbiamo un ospite con noi, Valeria Talbot, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, l'ISPI, è responsabile del programma Mediterraneo e Medio Oriente appunto all'ISPI. Buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Allora, dottoressa Talbot, innanzitutto cerchiamo di ricostruire chi si oppone al regime di Damasco, rappresentato ovviamente dal presidente Assad. Allora, bisogna ricordare, appunto, come lei ha detto, che le proteste sono scoppiate lo scorso marzo 2011, sono state delle proteste spontanee sulla scia delle rivolte, delle proteste scoppiate negli altri paesi arabi, dalla Tunisia all'Egitto, alla Libia, al Marocco, quindi proteste spontanee non organizzate, anche perché in Siria non esistono dei partiti di opposizione, l'unico partito riconosciuto è il partito Baath del presidente siriano Bashar al-Assad. Le proteste, quindi i movimenti di protesta spontanei sono stati poi repressi con la violenza dalle milizie e soltanto nell'estate del 2011 i movimenti di opposizione si sono organizzati nel Consiglio Nazionale Siriano. Consiglio Nazionale Siriano che ha avuto appoggio e ospitalità da parte della Siria rappresenta fondamentalmente la componente sunnita della popolazione siriana e quindi è il partito, è il movimento dominato dai fratelli musulmani. Ecco, mi diceva, mi scusi, appoggio e sostegno, ha detto dalla Siria, ma credo che fosse un refuso, dalla Turchia. Ecco, perché per parlare di questo paese che è mediterraneo ovviamente, ma che poi si apre all'interno, è forse opportuno ricordare brevemente dei confini che sono importanti, pesanti: il grande confine con la Turchia a nord, poi l'Iraq, poi c'è tutto lo spazio, diciamo, in realtà non c'è un confine diretto ma una prossimità estremità con lo spazio iraniano Oriente, a sud la Giordania, Israele, il Libano. Insomma, la Siria è un paese relativamente piccolo per dimensioni, ma così importante nello spazio medio orientale. Perché è così interessante? La Siria è un paese chiave dello scacchiere medio orientale per gli importanti legami che ha nell'area. Mi riferisco all'Iran. L'Iran è il grande alleato della Siria grazie all'affinità religiosa che lega il regime alawita, la minoranza alawita al potere con la maggioranza sciita della popolazione iraniana. Quindi l'implosione, un'eventuale implosione della Siria avrebbe ricadute sull'intera area medio orientale, dall'Iraq al Libano, alla Giordania, al conflitto israelo-palestinese, alla Turchia. Ricordiamo infatti che nel caso del Libano la Siria ha degli stretti legami con l'Hezbollah libanese, che al momento guida la coalizione di governo al potere in Libano. Inoltre in Siria vi è una importante componente della popolazione di origine curda. Ricordiamo, i curdi non hanno uno stato proprio, ma sono divisi tra Siria, Iraq, Iran e Turchia, quindi importanti ricadute nel riaccendere autonomismo, indipendentismo curdo, ma anche nel riaccendere il terrorismo di matrice curda legato al PKK. Inoltre in Siria si gioca la partita per la supremazia regionale tra l'Iran e l'Arabia Saudita, che significa anche una rivalità religiosa tra sunniti e sciiti. Questo scontro ha anche prodotto una alleanza che potremmo definire inedita tra Arabia Saudita e Turchia, quest'ultima competizione anch'essa per la primazia regionale. Quindi i risvolti regionali, oltre che interni, della crisi siriana sono molto quasi importanti. Quasi infiniti. Insomma, un paese che, come avete sentito, di fatto, se vogliamo, siamo ancora nell'effetto della definizione dei confini ottocenteschi, in cui moltitudini di popolazioni diverse producono poi stati nazionali con delle fortissime minoranze. D'altra parte, storicamente la Siria è un paese guidato da una sua minoranza interna, quella alawita, e nello stesso tempo è un paese dove, se appunto tenendo d'occhio la mappa delle rivolte e delle repressioni, possiamo vedere che le rivolte accadono non solamente a Homs e, diciamo, nelle regioni centrali, che poi sono quelle occidentali del paese, quelle con la maggiore popolazione, ma si distribuiscono ovunque, appunto verso i confini con l'Iraq, nelle zone sunnite piuttosto che curde. Questa è un elemento, una parte della grande complessità di questa vicenda. Ma la dottoressa Talbot ha studiato negli ultimi tempi, credo con particolare interesse, il rapporto con la Turchia, perché a sua volta una grande, appunto, un grande paese, un paese in trasformazione, anche un paese che ritorna ad assumere una posizione internazionale molto precisa. Da questo punto di vista Erdogan aveva quasi fatto una scommessa durante l'estate, quando sganciandosi dalla posizione, dal sostegno tradizionale alla Siria, aveva di fatto implicitamente scommesso sulla caduta del regime di Assad. Una scommessa che però a distanza di alcuni mesi sembra persa. Allora, tra qualche momento ripartiamo proprio da questo punto, dal rapporto con la Turchia e anche da un regime che, nonostante 400 giorni, lo ricordiamo, di violenza, di combattimenti che ormai hanno visto partecipare, entrare nel campo degli oppositori, anche parte significative dell'esercito, però tiene ancora. 30 minuti in cronaca. In meno di un anno la Siria, da partner regionale di rilievo, si è trasformata nella principale spina del fianco della Turchia. Sto citando proprio la prima riga di uno studio che Valeria Talbot, nostra ospite questa sera, ha realizzato sulla Siria, ovviamente, ma anche sulla relazione col grande paese, per lei, del nord. Insomma, dottoressa Talbot, ad agosto 2011 quasi una scelta da parte della Turchia, rappresentata da Erdogan, che interrompe la cooperazione, adotta una serie di sanzioni economiche, in fondo rappresentava l'idea che i giorni di Assad fossero contati, ma così non è accaduto. Purtroppo appunto la scommessa di Erdogan al momento sembra persa. Il primo ministro turco, fin dall'inizio delle prime proteste in Siria, ha cercato di esercitare delle pressioni sul fino ad allora amico e alleato Bashar al-Assad perché aprisse il suo regime a riforme, seppur graduali, così come è avvenuto in altri paesi. Cito il caso del Marocco. Tuttavia si è scontrato di fronte all'intransigenza del regime siriano e a nulla son valse le pressioni, quindi si è deciso di passare ad un livello superiore di pressioni e di intervento, anche in considerazione del fatto che il regime si pensava avesse i giorni contati. Dall'altra parte, nella scelta di Erdogan ha pesato anche il fatto che la Turchia ha sposato la causa della primavera araba, delle riforme, dell'avvio di processi di apertura politica. Erdogan, tra l'altro, nell'estate autunno dello scorso anno ha fatto un vero e proprio tour del Mediterraneo, è andato in Libia, come dire, era andato in Egitto, è sempre presente dove si tratta di sostenere questo genere di movimento, per cui diciamo che si è quasi trovato un po' costretto ad assumere una posizione che però, ripeto, a distanza di mesi è come lei ha ribadito, perdente. Ma come mai Assad tiene? Assad tiene perché ha ancora un consenso interno, perché non vi è un potere forte, indipendente, come nel caso dell'esercito in Egitto o in Tunisia, che si sono opposti alla Rais. In Siria l'esercito è composto fondamentalmente dalla minoranza alawita fedele al presidente. Quindi ha anche il sostegno dei poteri economici al regime si contrappone anche la debolezza e la frammentazione delle opposizioni. E inoltre ricordiamo che la componente curda della popolazione non ha partecipato alle proteste, sebbene questo non significhi sostegno ad Assad, però l'incertezza che seguirebbe al dopo Assad è un'incognita troppo grande per la minoranza curda. Insomma, una regione che peraltro proprio ha una storia ovviamente multimillenaria, ma che soltanto guardando agli anni della prima guerra mondiale alcuni gruppi etnici proprio nello spazio, diciamo, dell'attuale Siria hanno pagato pesantemente delle scommesse, degli accordi, dei sostegni che poi si sono rivelati sbagliati o solamente fuori tempo. Verso la conclusione, ci sono, dicevo in apertura, grandi appetiti internazionali. Un buon esempio può essere, forse per tutti, quello di Mosca. Una base militare, quella di Tartu, che è estremamente importante. Ancora il 20 marzo di quest'anno viene segnalato con allarme da Washington il movimentismo moscovita. Alcune navi arrivano nella base appunto di Tartu, nella base di Tartu sul Mediterraneo, scaricano materiali, scaricano armi, insomma, una base che storicamente rappresenta un punto fermo nel Mediterraneo orientale per Mosca. Quindi evidentemente un forte, fortissimo interesse della Russia a mantenere il regime e mantenere intatta la Siria, perché ricordiamo che un'implosione della Siria potrebbe provocare una frammentazione territoriale etnica delle diverse componenti, quindi l'interesse della Russia, di Mosca, a mantenere proprio l'unico alleato regionale storico dai tempi dell'Unione Sovietica. Insomma, dottoressa Talbot, a 400 giorni dall'esplosione di questa protesta, non sembra affermarsi un quadro di nessuna chiarezza, cioè sembra di essere ancora nel pieno di una partita a scacchi tra interessi appunto internazionali, quasi da great game ottocenteschi, con tutto il carico della violenza, del sangue, dei morti che queste vicende si trascinano. Questo almeno è quello che vedo. Secondo lei c'è una strada maestra in un senso o nell'altro verso il quale la crisi siriana si incamminerà? Ma al momento non si vede la fine della crisi siriana e molte incognite pesano sull'evoluzione di breve termine della crisi siriana. C'è un segnale positivo è venuto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza che la scorsa settimana ha votato per l'invio di una missione di osservatori nel paese. Una missione che al momento è numericamente esigua, perché si tratta di 30 caschi blu, e il segretario generale delle Nazioni Unite vorrebbe aumentare ad almeno 300 caschi blu la missione degli osservatori, anche se il numero rimane esiguo su una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti. È un primo segnale di un accordo ed è questa la strada da seguire, quindi l'accordo delle potenze per innanzitutto un cessate il fuoco che al momento, nonostante la tregua, sembra non reggere, per cui la crisi siriana, la soluzione della crisi siriana è ancora lontana. Lontana all'orizzonte, nella speranza appunto che questo primo segnale di accordo, per quanto ampiamente simbolico, tra l'Occidente, la Russia e la Cina, appunto rappresentato dalla risoluzione, possa avviare, dopo, ricordo, 400 giorni di sangue, un percorso verso una soluzione politica di questa grande crisi. Io ringrazio Valeria Talbot, lo ricordo, è ricercatrice all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, responsabile del programma Mediterraneo e Medio Oriente. Grazie di essere stata con noi, grazie a Peter Bescapè in regia. Il nostro tempo è finito, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre sabato prossimo a partire dalle 19:30. Un saluto e buon fine settimana a tutti voi.